senza d'uscita, torna a te guardare, non lo può sapere, come si importa dovere, non un d'uscita, fatta carezzare, i saccio parla, solo quando stai del bene, posso scuorni non mi cavo bene, amore so senza sta con te. Già si è innamorata mia e vedo sempre a te nel fondo di un caffè di te padrine tutti ma ragazzina e ma innamore te se non si fa sete non voglio cadere da guardare nessuno e la da parte te da non si può fare e non pensiero in fama che fa male. Stai sentando a me, ma io posso sapere, forse è colpa mia, ma sta gelosia che nasce, quando un pensiero va lontano, e ti appiccio l'anima così. Ma innamore te, se vuole sto con te, se vuole già si è innamorata mia, sembra a te nel fondo di un caffè di te padrini tutti ma ragazzina ma l'amore te se non si fa sete non voglio cadere da guardare nessuno che la da parte te da non si può fare e non pensiero in fama che fa male se non stai con me. Basta scumi chi ama stilo solo, ma chi ha voglia troppo forte, ma comincia a te spugliare. Mi va se non la rezzi più, ma fanno credere.